Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, io sono Stefano Dainese, siamo in leggero ritardo, ma insomma nessun problema, sono le 22:36 minuti in questa istanza, inizia Rock Wave Live, l'appuntamento con la musica dal vivo della nostra emittente. Questa sera è venuto a trovarci un musicista americano che si chiama Hayward Williams. Welcome, Hayward. Thanks for having me, thank you. Lui, come d'abitudine in questi appuntamenti, ci farà ascoltare delle canzoni dal vivo, ma naturalmente ascolteremo anche una selezione di brani dal suo ultimo album che si intitola Haymaker. Lui è in Italia per un tour che sta andando molto bene, molto soddisfacente, è la sua prima volta in Italia, quindi è un po' tutto nuovo per lui. Ringraziamo i nostri amici di Roots Music che collaborano con questi musicisti e anche con la nostra emittente per averci dato l'occasione di organizzare questa serata di musica dal vivo che noi adoriamo fare. Adesso ci ascoltiamo un brano intanto dal suo disco, come facciamo sempre, così potete un po' orientarvi, ambientarvi con il mondo musicale di Hayward. Dopodiché parlerò con lui e naturalmente lo ascolteremo suonare dal vivo. Il pezzo che ci ascoltiamo si intitola Before Storm e vi ripeto, l'album è Haymaker, lui è Hayward Williams. Buon ascolto. Shelter. If they ever wanna come back this way, they'll be mindful. Must be mindful. Gonna be a wild one Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Before Storm, un brano decisamente elettrico, tirato con un qualcosa anche di glam rock. There's a hint of glam rock in this song. What do you think? People have said that it sounds like T-Rex. Yeah. Si dice giustamente che più di qualcuno gli ha detto che può ricordare il suono di T-Rex, Mark Bolan praticamente. Mark Bolan è morto prima che Highway nascesse. Mark Bolan was already dead when you were born, right? Well, I was born in 81, so if that works, then yeah. Yeah, he was dead and gone. Yeah, that's too bad. I love their music. I love the energy. I mean, I can't say that was a direct influence on that song, but I sure do love the comparison. Si dice non si è reso conto se c'è davvero un riferimento diretto nella canzone con la musica di Mark Bolan, però apprezza che gli venga detto, perché è una musica che lui ama, anche se appunto abbiamo fatto i conti è nato dopo la morte tragica di Mark Bolan. E Hayward viene dal Wisconsin, da Milwaukee. Mm-hmm. Milwaukee è una città che in Italia conosciamo per Happy Days, credo. That's the only reason why Italian people knows Milwaukee, because it's not one of the most famous cities in the US. No, we know that Milwaukee is not terribly famous in Milwaukee, but we have Happy Days. I believe Laverne and Shirley was also in Milwaukee. We have a statue of the Fonz. From Arthur Fonzarelli. You have a statue of him? Yes. per quelli diciamo che se lo ricordano, Milwaukee hanno una statua di Fonzi. Yeah. Noi abbiamo Garibaldi e loro hanno Fonzi. E fra l'altro anche un altro telefilm si svolgeva Laverne and Shirley. And Shirley, che però in Italia that's not very famous in Italy, but Happy Days was a great show. I'm sure, but Happy Days was really huge. Sì, Happy Days da noi è stato un fenomeno di costume letteralmente. Però ecco, la statua di Arthur Fonzarelli è una novità. So the tourists are taking pictures of the statue. I turisti fanno le foto a questa statua. Well, I've taken pictures with it too. Yeah. Mi sono fatto anch'io la foto con Fonzi. Suppongo che sia messo con with thumbs up. Sì, con i pollici in alto e thumbs up. Insomma, giustamente hanno sfruttato la notorietà che il telefilm ha dato alla città. E immagino ci sia anche una scena musicale. Part of that, also a music scene in Milwaukee. There's a great music scene in Milwaukee. I think because it's a lesser city, the music community is more. They help each other out more, and they're more. It's more of a community, and I think that means we have a stronger music scene. Sì, dice che alla fine hanno un'ottima scena musicale, perché il fatto che la città sia meno importante di altre fa sì che i musicisti collaborino molto fra di loro, ci sia una grande solidarietà, e quindi la scena musicale naturalmente non è enorme come quella di altri posti, però è molto molto forte. E lui, Hayward, è stato parte di questa scena fin da giovanissimo. You started to be part of this scene at a very young age, am I right? Yeah, I played in a cover band when I was 19. But I mean, I played cafes and things like that when I was younger than that. But I didn't feel like I was really part of the scene until I started writing my own songs and making my own music. Dice che ha cominciato molto giovane e poi ha avuto anche una band, una cover band quando aveva 19 anni, ma si è sentito essere parte della scena quando ha cominciato a scrivere la sua musica. Insomma, sì. Come cover band, mi chiedo cosa facesse. What kind of music did you cover? Pop music. Pop music? Yeah, anything from classic rock to 80s pop to late 90s current pop music. It was very nostalgic. Molto nostalgica della musica degli anni 80 e 90, pop. Ma you haven't said any name. It's title of songs that you covered. Oh my gosh, we would do it's I feel like I've blocked it out in my brain. Come un blocco in testa. Okay, I'm una voce Hayward che lo vedrei più a fare cover di Johnny Cash. Che with your voice, I have the feeling that you can cover Johnny Cash more than pop music. Right. Well, I was just the bass player in that band. Ah, okay. Yeah. Just suonava solo il basso nella band. Yeah. I look very young, and my voice is very deep. Yeah. And so people are normally very confused when they first hear me sing and see me. Play. Yes, I was going to say this to people. Si è detto una cosa che stavo appunto per dire comunque in radio, che è un po' straniante sentirlo cantare avendolo davanti, perché ha 32 anni, ne dimostra 25, però la voce, adesso l'avete sentita sul disco, ma adesso lo sentirete cantare, è una voce matura, una voce da baritono, direi. Quindi è un po' strana la cosa, un po' sorprendente soprattutto, non che ci sia niente di male. Of course it's a good thing, but you're right, it's kind of confusing the first time, like you're in playback someone else. Right. Come se ci fosse un omone grosso dietro di lui che canta, perché lui è anche piuttosto magro, insomma. Well, so as we are talking about your voice, I think it's time for you to use it to sing. What song are you going to play? This is a song, it's called Last to Know, and it's on a record that I'm finishing right now, and I'm very excited about it. Oh, so it's a preview just for us. Absolutely. Thank you very much. Allora, questa è un'anteprima dal nuovo disco che mixerà, mi diceva prima, al suo ritorno in America, quindi è praticamente pronto, e la canzone si intitola Last to Know. Hayward Williams dal vivo su Blu Radio Veneto. I was all on my own. I was damn near upside down, looking up at old Ryan, thinking it's a good thing he's got that belt on. Still, how could we be the last to know? Seems that someone's got us under control. It was all in a dream. We were held there in someone's hand. When a man said to me, you'd better choose, you can never know right where you'll land. Who's got the right to keep us in this alleyway? Palm for the break of day. It's not right, and I'll go one step further to say it's a goddamn shame. They're leading you on. They're leading us on. Still, how could we be the last to know? Seems that someone's got us under control. Yeah, someone's got us under control. Questa Questa era Last to Know, un'anteprima, un'anticipazione del nuovo album. A questo punto gli chiedo subito quando uscirà. Do you already planned the new record, the street date? No. But he said it's ready, almost ready. It's quasi pronto ormai. The primary recording is done, and when I return from Italy, I'll finish mixing and mastering it, and then we're going to see what kind of support we can get for it to have a proper release. Si dice che gli manca il missaggio alla masterizzazione, quindi diciamo la post-produzione, ma le tracce sono già completamente incise, e questo lavoro lui lo farà proprio al ritorno dall'Italia, quindi fra una settimana, e dopodiché il disco sarà pronto e deve vedere un po' la parte, diciamo, di business, deve vedere come fare per avere una pubblicazione la migliore possibile, insomma, perché il disco che sta presentando adesso qui in Italia, Haymaker, è uscito l'anno scorso, nel 2012, e è stato realizzato con una compagnia, con un sito, anzi, che si chiama Kickstarter, ne avete sentito parlare, che si occupa di crowdfunding, ovvero sia di raccolta di fondi, letteralmente. Cioè, vengono pubblicati dei progetti, che in molti casi sono dei dischi, ma possono essere anche dei progetti industriali per nuovi prodotti, aziende che propongono qualcosa sul mercato, e la gente può investire o contribuire, ad esempio comprando in anticipo una copia. È una cosa che stanno cominciando a fare anche i musicisti italiani, ma che negli States ha un notevole impatto. So you made this record with Kickstarter. Yes. And voglio chiedere se è stata una cosa voluta, se è stato spinto a farlo perché non trovavo una casa discografica, e se è andata come pensava. So you made it on because you wanted to do that, or because you just couldn't find a proper label, and did it work as you were hoping for? Well, I was at a point where I didn't have the money, but I had the record finished, but I didn't have the money to manufacture it or to distribute it, and so I decided to use Kickstarter simply because I didn't have the money, and I reached my goal in 24 hours, and it was very low goal. Yes, it was very it was very quick, and it's a very humbling experience to kind of have that kind of support. Si dice che il disco l'aveva già fatto, quindi i soldi non gli servivano per la realizzazione del disco, ma gli mancava appunto il necessario per la promozione, la pubblicazione, eccetera. Allora si è rivolto a Kickstarter e ha raggiunto il goal, perché appunto viene stabilito una cifra che si deve raggiungere. Se questa cifra non viene raggiunta, i soldi vengono restituiti agli investitori, e lui ha raggiunto il risultato in 24 ore, quindi deve essere anche you could have think about bigger, because in 24 hours it's really nothing. Yeah, I suppose avrei potuto chiedere di più a questo punto. I suppose I should have gone for more money, yeah, but I know I got what I needed, and I got the record out, and that was the most important thing for me, just to be able to give it to the people. Si dice che alla fine quello che gli interessava era avere appunto i soldi per la stampa, in modo tale da poter far sì che la gente avesse il disco materialmente. Non era interessato a raccogliere cifre ulteriori per altre ragioni. Normalmente invece i musicisti chiedono i soldi in anticipo per realizzare l'album. Many of your colleagues, other musicians, are asking for money to record right. The songs. You made something different. Yeah, I mean, you paid on your own for the recordings, right? Right. I paid on my own, and also called in a lot of favors from friends of mine, so that they, out of the kindness of their heart, devoted their studio time or their professional skills. Oh. Yeah. Si dice che è stato aiutato anche da molti amici del settore che hanno contribuito dando tempo di studio e capacità professionali, quindi si parla dei musicisti coinvolti nell'album. Sto guardando l'ora, direi che potremmo andare con un altro brano dal disco e poi continuiamo a chiacchierare con Hayward. E ci ascoltiamo adesso il pezzo che si intitola High Horse. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo brano si intitola High Horse. E abbiamo appena avuto un messaggio dal nostro comune amico Cesare Caruggi che ci sta ascoltando in streaming. Lo salutiamo. Say hello. Cesare, you're the best. It was fun singing Thunder Road with you last night. ha detto che gli è piaciuto, è stato divertente suonare Thunder Road insieme a Cesare ieri notte. Avevo saputo appunto di questa cosa, erano in Emilia Romagna, ieri sera c'era Hayward appunto che si esibiva e Cesare era lì di passaggio con la chitarra. Sappiamo che lui è molto disponibile a queste cose. Quando è venuto qui in studio un mese fa, ha suonato insieme al nostro amico Salvo Ruolo. Cesare played together with a friend of us here one month ago when he was here to for his new record. For his new record, yes, and they played together, so he's really into it. Sì, Cesare appunto fa parte di Roots Music, che è l'associazione che ha fatto sì che Hayward venisse in Italia per la prima volta. For the first time in Italy, right? It's my first time, yeah. But I have the feeling that you will be back soon. Penso che tornerà presto, perché è stato molto ben accolto. You are very well welcome, right? I've had an incredible time here. I studied art history in university, and so coming to Italy was always a dream. And to be here and to be able to do my job here is a dream come true. Sì, ha studiato arte all'università, quindi l'Italia era sempre stata una sua meta sperata, e riuscire a venire qui per fare poi quello che è il suo mestiere è un sogno che si avvera. Purtroppo, facendo una tournée, penso che le visite artistiche siano molto limitate. Unfortunately, you couldn't see much art being here for playing. Well, I mean, just being able to see the history and the architecture is very exciting, and that's kind of the curse of being on tour, is you get to go to great places but not necessarily have the time to enjoy them. Yeah. Si dice che almeno ha potuto vedere la parte architettonica, che è comunque molto interessante. Naturalmente è la solita maledizione dei musicisti, che vai in posti bellissimi e non hai modo di visitarli, ma insomma intanto si è fatto un'idea. At least you have a first sight of Italy, and you know where to go when you will come back. We'll know exactly what to do when we come back, and we will come back. This has been so great, and everybody's been very positive and complimentary so far. Sì, dice appunto che sicuramente tornerà e sa dove andare, e la cosa, appunto, questo tour sta andando molto molto bene, tutti sono stati molto amichevoli, per cui le possibilità ci sono sicuramente, magari con la band, maybe with the band next time. Quello è più complicato sicuramente. It's very complicated and very expensive. È molto costoso. But it's also it's very very fun to have a band with you. Dice che è anche tanto tanto divertente avere una band con te. Is the band the same people that are playing with your records? La band live la stessa del disco? My band changes every time. Pretty much, I have a different band for each record. The band that I had for Haymaker was primarily guys from Chicago, and then, primarily guys from Chicago, and then the new record has people from Massachusetts and Boston and Montana. Well, si dice che in realtà cambia band ogni disco. In Haymaker la band era composta di gente di Chicago, mentre per il nuovo album ci sono persone di Boston, Massachusetts e Montana. The drummer is Billy Conway from Morphine and Treat It Right, and he is that's a great drummer. Yeah. Il batterista è Pete Conway, his name? Billy Conway, che suonava nei Morphine. Morphine, you know, in Italy they were very well known. Yes. Morphine era molto conosciuto in Italia, Verdone era un grande fan, l'ha usato anche in un paio di suoi film, e il leader dei Morphine morì proprio in Italia. You know a story that singer from Morphine died close to Rome. Morì sul palco, una cosa. Io conobbi una persona che era presente al concerto, una di quelle cose che veramente fanno colpo. Comunque un grandissimo batterista, l'avevo visto dal vivo. Billy is a great, great drummer. He's a great drummer and even better man. And he's a very good brain to have in the studio, because he's kind of like the Dalai Lama. He is able to see things differently than everyone else and make sense out of it. Ha detto che non è solo un gran batterista, ma come persona è anche meglio, ed è una persona che è molto importante avere in studio, perché lui è, come ha detto, come il Dalai Lama, cioè vede le cose in una maniera diversa dagli altri. So he's also producing the record, fa il produttore anche. My friend Jeffrey Foucault is producing it, and he the first person he called to play drums was Billy Conway. Oh. And then the bass player is Jeremy Moses Curtis, who has played with Booker T. And yeah. Sì, allora il produttore del disco è il suo amico Jeffrey Foucault, che ha chiamato appunto Billy come prima persona che voleva nel disco, perché evidentemente sapeva bene con chi aveva a che fare, e poi il bassista che suonava con Booker T, sì. Quindi un'altra una sezione ritmica da favola, great rhythm section. Oh my God. The rhythm section, the bass player didn't even rehearse with us, and he just showed up on the first day of recording, but he's played with Billy many, many times, and so it took no time to get things together. Il bassista non ha avuto modo di provare con loro, si è presentato il primo giorno delle registrazioni, ma sono tanti anni che sono insieme a Billy, per cui ha detto che no time, cioè senza nessun perdita di tempo, le cose si sono subito messe bene, sono andate insieme. Possiamo quindi aspettarci forse un disco più ritmico? Will be a more rhythm record? It's very rhythmic, and it's also acoustic. There's no real electric instruments. It was all done live and to tape, and along with me and Jeffrey and Billy and Jeremy, there was also a brother sister duo who sang live backing vocals. Oh. Quindi è un disco in realtà molto ritmico, ma praticamente tutto acustico, e oltre a loro c'era un duo, fratello e sorella, che fanno i cori. Quindi a sentirlo così sembrava una cosa blues soul. Sounds to me, from the description, it really feels like a Bill Withers kind of record, like Moon Dance. Not the song Moon Dance, but like the record itself. The record, yeah. The kind of earthy and acoustic, but soulful. Sì, dice, l'ispirazione appunto è venuta dai dischi di Bill Withers, da Moon Dance di Van Morrison, non la canzone ma il disco, che appunto è molto pieno di soul e anche di molto, un disco molto rurale, se vogliamo, come sonorità. Bene, no, siamo molto impazienti di sentirlo. Can't wait to hear that. No. Me neither. Yeah. Anch'io ho detto. So, are you going to play something more now? I'll play one of the songs, another song from that. Ok, un'altra anteprima dal prossimo album. It's called High Street. The High Street. Yeah. Too much talking gets me high. Who's got the breath to keep up? And all that chattering, there's a lie. Who's got the lungs to say goodbye? Say goodbye. You know me, I'm at your feet. Put that foot towards the door. With all these people so incomplete, how can they afford to be in retreat? I guess they just can't. I can hear them bells calling. I think it's time we take our leave. It's a life that we may never know. We can always meet up on the high street. Up on the high street. Walking home on the high street is a good time to pretend, with lives lit up for the world to see. With no pain like a TV screen. Like a TV screen. I can hear them bells calling. I think it's time we take our leave. It's a life that we may never know. We can always meet up on the high street. Up on the high street. Oh, we can always meet can always meet. We can always meet. We can always meet. When they've all gone to bed, we'll be walking hand in hand. We keep on walking on instead. Get this night right out of our head. Oh, right out of our head. I can hear them bells calling. Yeah. I think it's time we take our leave. Mm-hmm. It's a life that we may never know, but we can always meet up on the high street. Up on the high street. Up on the high street. Up on the high street. Oh, we can always meet. We can always meet. Mm, we can always meet. We can always meet on the high street. Questa è la High Street, un'anticipazione del prossimo album di Hayward Williams, che l'autore ci ha presentato in anteprima qui dal vivo, e si poteva sentire appunto già dopo la sua descrizione di come sarà l'album, ascoltando la canzone si può immaginare, I was picturing in my mind the song, how it can be with a rhythm section and the vocals, the background vocals. Yeah. It's a really soulful song, è una canzone molto piena di soul. It's the record is going to be very soulful, and it's a very autobiographical record, and it's the record I've always kind of wanted to make, just with very, very naked and very honest. Si dice sarà un disco molto pieno di soul, è un disco autobiografico, è il disco che ho sempre voluto fare, molto sincero e onesto, molto diretto anche. Il disco che hai sempre voluto fare vuol dire che prima ci sono stati dei compromessi. You said the record that you always wanted to make. Why didn't you make before? Because you were too young, were not good enough. I didn't know how to do it. Non sapevo come farlo. I had always tried. Ci ho provato, ma. But I needed to. I don't know. I needed to be older. I needed to find the right woman. I needed to play more shows. I needed to travel more. You know, I needed to experience. I need more life, and I hope I'll find another record I want to make. Sì, dice che prima era troppo inesperto, aveva bisogno di fare più strada, di suonare più in giro, di vedere più persone, di viaggiare di più, di trovare la donna giusta. Lui è sposato e adesso spera di trovare un altro disco da dover fare in futuro. In effetti certe cose possono venire fuori solo con l'età. Ho visto che c'era in vendita la biografia di Justin Bieber, sarà 25 pagine. I'm sorry, what? No, you said you were maybe too young. I saw they are selling the Justin Bieber the biography. It's probably 25 pages. Right, exactly. Right. There's nothing to say. Yeah, sì, uno deve avere anche un punto un po' di, per fare certi dischi devi avere un certo esperienza. No one wants to listen to the experiences of a 15-year-old boy. Nessuno vuole sentire le esperienze di un ragazzino di 15 anni. Uscirà probabilmente nel 2014 il disco, chiaramente, quindi saranno passati 2 anni dal precedente, ma mi pare di capire che per lui sia un grosso passo avanti. So the next record will be 2 years after Haymaker, more or less. Yes. But I have the feeling that for you it's a bigger step, it's a very big step forward. It is. Let's make another record. No, this next record is going to be, I think, You know, and you never want to put pressure on a record, but I feel like it's going to put me into a different place in my career, and I'm excited about that. Si dice non vuole mettere pressione al disco, che è una cosa un po' surreale da dire, però pensa che questo disco sarà un passo che lo porterà in uno stadio successivo, diciamo, della sua carriera, un passo avanti importante, perché lui aveva cominciato poi in una band. You started with a band, Exit, right? Correct. And well, we talk about this afterwards. Ne parliamo dopo. Ci ascoltiamo invece un'altra canzone da Haymaker che si intitola What's Coming. In my dream, Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. What's Coming, un pezzo molto arioso, una melodia di quelle che colpiscono subito, ed è sempre tratto da Haymaker. Stavamo appunto citando la band di Hayward, questi Exit. Lui ha preso il nome su serio e se ne è uscito. You follow the name and you exit from the band. Yes. It was... The band made a couple of records, am I right? It did. We tried to be an original band, but the only way then to make money in Wisconsin is to play cover music. Yeah. And so, in the end, it was very unfulfilling and I had to leave. Si è detto che loro volevano essere una band originale, cioè suonare la loro musica, però per trovare ingaggi, per poter diciamo lavorare regolarmente in Wisconsin gli chiedevano soltanto di fare cover, e quindi alla fine lui si è stancato e se n'è andato. Non so come che rapporti sia rimasto con i musicisti. What about the other guys in the band? Are they still hanging out with you, they're playing with you or not? You know, it was, you know, I see them every once in a while, but we all really went our separate ways, and we're still all involved in music one way or another, but I think I'm maybe the only one that has a career in original music. Yeah. You're the only one. Yeah. Sì, ha detto che si vedono ogni tanto, tutti quanti ancora suonano, ma lui è l'unico che sta avendo una sua carriera con la musica che scrive. Quindi è stata sicuramente la scelta giusta di chiudere. So, you obviously made the right choice. Well, I like to think so, yes. Il disco, questo Haymaker, è praticamente autoprodotto, quindi volevo chiedergli un po' se qualcuno volesse acquistarlo, qual è il modo più semplice. So the record is distributed in Italy as well or not? I believe if someone wants to buy it, let's make some advertisements. If they want to buy it, they can go to haywardwilliams.com. Okay. And there is a link to buy the record on there. Andate nel suo sito che è haywardwilliams.com, troverete il link anche nel nostro sito prossimamente, anzi penso ci sia già, e dal sito potete poi andare nello shop online. And then older records can be found on iTunes. E tutti i suoi dischi si possono trovare su iTunes, dove c'è tutto chiaramente. E invece per il, a proposito, il nuovo disco, ne ha parlato tanto, non ci ha detto il titolo, se c'è. You talk a lot about the new record, but what about the title? Is there a title already or not? No, the title has changed, and I talked to my producer the other day and he's already started using his own title for the record, there are many titles out there right now. Ok, ci sono diversi titoli fuori perché lui non è ancora indeciso, per cui il produttore gli ha dato un titolo suo, lo chiama con quel titolo là, per cui vabbè, insomma, uno dovrà decidere uno dei titoli alla fine. So the baptism is not ready yet. There's no official title yet. No, not yet. Ok. I was looking for about the time. I think it's time for you to play. Great, I'd love to. Bene, ottimo. Allora, ci suona adesso un'altra canzone. This is a song from an older record called Cotton Bell, and this is the title track from that record. Ok, questa è una canzone da un suo vecchio disco intitolato Cotton Bell, Belt, e questa è la canzone che dava il titolo all'album, Hayward Williams. When you were young, used to lie like a lamb. When you were young, you used to lie like a lamb. Well, come back, baby, and lie to me again. When you were around, you used to sound like a hymn. When you were around, you used to sound like a hymn. Well, come back, baby, now sing some more again. All those things we've yet to do, never get around to. It's ringing out like a cotton bell. Whatever, baby. Oh well. Oh well. Now that you're gone, I just stand up like a sketch. Now that you're gone, I just stand up like a sketch. Come back, baby, and fill in the rest with all those things we've yet to do. We'd never get around to. It's ringing out like a cotton bell. Whatever, baby. Oh well. It's ringing out like a cotton. Whatever, baby. Oh well. Oh well. Caron Belt, bellissima canzone, la voce quella di Hayward è veramente impressionante. Poi c'è questo contrasto fra l'aspetto fisico molto giovanile e la voce profonda, matura. Mi ricorda Roy Orbison in certi momenti. Come tonalità proprio. Ho un annuncio qui da fare, perché abbiamo avuto un messaggio da Carlo, che è il proprietario gestore di un locale che si chiama L'1.35 circa a Cantù, che saluta Hayward e dice che lo aspetta domani. Carlo is waiting for you at in Cantù tomorrow, is the owner of the 1.35 circa. Saluto Carlo, lui non mi conosce, ma io di vista lo conosco, perché sono stato nel suo locale qualche volta, e gli faccio anche pubblicamente i complimenti, perché ha forse il miglior club che ho visto in Italia per come si può dire, per il modo in cui l'ha messo giù il locale. C'è un grande rispetto per i musicisti nel suo locale, c'è una separazione fra la parte musicale e la parte, diciamo, di intrattenimento, per cui il musicista è rispettato, c'è un'acustica notevolissima, e ci vorrebbero più club come quello, anche se Hayward ha avuto l'occasione di suonare anche in un teatro. You had the chance to play in a theater also the other night, right? I did. Yeah, it was incredible. It was gorgeous. A beautiful little town with a Dolza. Yeah, Dolza. And it was a lovely crowd and a lovely venue, and Corrado was fantastic. Sì, dice che al Teatro Comunale di Dozza è stato, avete sentito, insomma, è stato entusiasta dell'accoglienza e anche del locale, perché non credo sia poi così normale per un musicista americano suonare in un teatro. It's not that common for you to play in theater. No, I mean, I've played some bigger shows in the States, but to play in like an ancient town with a theater is surreal, and that's half the reason why I love coming to play in Europe, is because I get to play in interesting venues. Dice che sì, una delle ragioni per cui gli piace venire a suonare in Europa è che suona in posti interessanti, appunto, perché anche in America è suonato in dei teatri, ma questo era un teatro in una città storica, quindi un posto che ha una storia. Lui ha detto prima che è uno studente d'arte, quindi è stato uno studente d'arte, per cui c'è una fascinazione, diciamo, dell'ambiente che sicuramente lo colpisce. Peraltro lui è stato appunto chiamato in Italia, l'ho ricordato prima, da Roots Music, e non so se lui era al corrente prima di venire chiamato da loro di avere un seguito in Italia. Before you had the call from our friend from Roots Music, did you know that someone in Italy was following your music and appreciate that, or it came just out of nowhere for you? I mean, I have a vague idea of una vaga idea of where and if people are listening to me, but I got a message from Cesare, and I decided that it was a good idea without really worrying about anything. You trusted him immediately. I trusted him. Yeah, I don't know why, but. It worked out. Yeah. Sì, ha detto che aveva una vaga idea di chi lo ascoltava più o meno in giro per il mondo, però appunto ha ricevuto questo messaggio da Cesare e gli ha creduto immediatamente, si è fidato e quindi è venuto qui in Italia. È anche stato fortunato, perché insomma questi sono periodi duri un po' per tutti, anche per i musicisti, e non è facile trovare professionalità e gente che ti appoggia seriamente. You've been kind of lucky, because you can never tell when you are 5,000 miles from home. Exactly. a lot of my traveling overseas has been a real leap of faith, just because I've gone to Australia, and it was a very similar situation. Somebody wanted to bring me down there, and I said okay, and that is the farthest away I've been from home, and I didn't know anyone there. And so it's what it is it's a testament to humanity, because people are normally good people. Yeah. Good. Yeah. Sì, dice che i suoi viaggi all'estero, quelli diciamo lontani, sono sempre stati un po' un fidarsi alla cieca. Gli è capitato anche con una tournée in Australia, ha ricevuto un invito e si è fidato, è andato in questo posto lontanissimo da casa e le cose sono andate bene, per cui secondo lui questo mostra che insomma nel mondo ci sono tante brave persone, tante persone di cui ci si può fidare. È andata sempre bene, diciamo. You've been always lucky. No, lucky. My upbringing was very not trusting of strangers, and so to go against that is very against my you have to nature. Force yourself. I have to force myself to do that, and my father is always worried about me. So, still. Yes, yeah, still very, very worried about me. So he was very glad to know that my friend David was coming along to protect me on this trip. Sì, dice che in realtà il suo primo, lui come persona non sarebbe poi così portato a fidarsi degli altri, però quando, in queste occasioni si è sempre buttato, gli è andata bene. Suo padre continua a essere molto preoccupato per lui, quindi è stato molto contento che il suo amico David, che è qui nell'altra in regia che guarda, è con lui per proteggerlo, che poi la cosa suona come una battuta, perché David è una volta e mezzo Hayward, per cui se si dovesse trattare di proteggerlo è la persona data. Yes, we said he is here to protect you, but I'm telling people that also physically is the right guy. I mean, he's twice as big as you. He's twice as big as me. But and he's mean. And he's very, very, very mean. Molto cattivo. And in realtà c'è una faccia, la persona meno aggressiva del mondo. I've had to, you know, make sure he doesn't get into fights after shows. You know, he's a very, very, very angry guy. Dice, devo stare attento che non si metta a litigare con tutti dopo lo show. Ripeto, la faccia di David dice tutt'altro. His face is really telling that, especially no, after drinking. He's right now he's kind of drunk on cheese and rum, but he's actually one of the sweetest guys I know. Sì, in realtà è una persona straordinaria. Adesso dice che è un po' sopraffatto dal cibo e dall'alcol, per cui e non è nella sua forma migliore. Dunque, vi ricordo, facciamo un po' il punto della situazione. Questo è Rockwave Live, sono le 23:36 minuti. Sono qui in studio con Hayward Williams, che è venuto per presentarci il suo ultimo album Haymaker, che però è del 2012. E in realtà abbiamo parlato molto del suo prossimo album, che uscirà fra qualche mese probabilmente, non ha ancora un titolo, però insomma abbiamo ascoltato alcune canzoni e possiamo già essere molto impazienti di sentire il disco. Non ho ancora citato il nostro Agostino in regia, sempre puntualissimo, e direi che adesso possiamo andare con un altro brano dall'album che si intitola All Too Willing. Stuck inside a guiding hand, I was walking in a strange land. It was all such a strange land in my youth. Between the car and the road and your skin, I was just a passenger in that beat up 89. When I was all go, I was all too willing to let go, and I was all too willing to let go. Between you and me, though I was spread so thin, I still felt just like a passenger in that beat up 89. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, abbiamo ascoltato questa All Too Willing, un pezzo molto tirato, con un drive alla Ryan Adams, qualcosa sì, molto classic rock, se vogliamo. Yeah, absolutely, yeah. E adesso ho un paio di annunci da fare. Allora, il disco in realtà è distribuito dalla IRD in Italia, quindi tutti i negozi che trattano dischi, quelli che ci sono ancora, lo hanno disponibile, e per chi non volesse impelagarsi, diciamo, con spedizioni internet e robe del genere. E poi c'è un personaggio che Howard ha incontrato il primo giorno che era in Italia, Lele da Osnago, dall'Arci Lele La Loco, ok, il nostro Agostino è più bravo come tecnico che come scrivano. Saluta appunto Howard. He says that he hopes to meet you as soon as possible. Yeah, he was. Thanks for your friendship. He says. Oh no, he joined us on our first night in Italy, and when we went to a restaurant and tried to order food, and there were a lot of hand gestures and mimicking different animals on the menu, and he came and helped us out, and he's a great guy. It saved the day or the night. Yeah. Sì, questo Lele appunto gli ha salvato la cena, perché erano in un ristorante ma c'era qualche problema di comunicazione. Ha detto che loro stavano cominciando a mimare vari animali per cercare di capire cosa c'era nel menu, e Lele è arrivato e ha tradotto, insomma, gli ha permesso di nutrirsi. Well, this is normal. It's right, happening yeah. Every time. It's una yeah. Storia che si è vista molte volte. Right. So I think you can play something more now. Absolutely. Are you ready or wanted? Well, I'm almost ready. Yeah. Almost ready. Si sta preparando. Prima allora vi spiego. Cosa significa il titolo del disco Haymaker, perché era una parola che io non avevo mai sentito nominare, e allora gliel'ho chiesto. C'è un po' gli è piaciuto usarla, perché le iniziali sono le stesse del suo nome, Hayward e Haymaker, però è un colpo della box, un colpo molto, diciamo, disperato e molto, molto largo, che un tentativo di ammazzare qualcuno, fondamentalmente. Lui ha voluto usarlo perché il disco è molto aggressivo, diciamo, e quindi gli piaceva così usare questo termine, che però è slang. This is slang, right? It's not yeah. Official English word, or is it? It's used as an official boxing term. Ah, okay. It usually word. Means that someone is about to lose the fight if they're throwing haymakers. So it's the last chance. Yeah. Sì, dice che in realtà è un termine ufficiale della boxing, non sono molto esperto, ma viene usato quando uno fa un haymaker, vuol dire che è proprio messo male, che è l'ultimo tentativo, un colpo alla cieca, sperando yeah. O la va o la spacca, diremo noi in Italia. Effort, yeah. last chance. Ok, we got it. Right, abbiamo capito. This is a song called Redwoods off a record before Cotton Bell called Another Sailor's Dream. Another Sailor's Dream, yeah, era il titolo dell'album, ancora prima di Cotton Belt. And the song is called Redwoods. E la canzone è Redwoods. Redwoods are the tree. The yeah, big yeah, trees. Yeah, yeah, yeah. I redwood tree sono quelli che ci sono nella foresta di Redwood, e sono gli alberi più alti del mondo, credo. Superano i 100 metri, una cosa inquietante, veramente. Good. If you're looking for a redwood forest, you can find her on the Upper West Side. Don't be surprised if the tree's the tallest somewhere in the back of my mind. She'll raise you up into the thin air. Dizzy with the thought that you're just standing there. I found myself lost inside of you, carving our names into your skin, etching with the edge of a knife in the darkness, ruining everything we had to begin with. So take in the smoke, breathe me back to the air. Plain words that peel, only don't seem to care. When I fell for you, like a blanket making a bed, clinging to the air, resting there instead. I fell for you, oh yes I did. Bene, allora questa era una canzone su questi alberi molto alti. Io pensavo che le sequoia fossero gli alberi più alti, invece sono i più grossi, sono quelli che pesano di più perché sono massicci, ma i redwood sono appunto ancora più alti, crescono sulla costa del Pacifico. Non so come mai hai scritto una canzone su questi alberi. Why did you write a song about these trees? Well, I guess it's a really awkward metaphor about how my girlfriend is a redhead, and how she is kind of a very rejuvenating spirit, kind of like walking through the woods. Ha detto che è una metafora estremamente azzardata sul fatto che la sua ragazza, your girlfriend, she's your wife now? She is now my wife. Che adesso è sua moglie. That's important to, you know. È importante dire che sua moglie ha i capelli rossi, appunto come sono rossi questi alberi, e ha uno spirito tale per cui stare con lei è come fare una passeggiata in questi boschi che sono molto rilassanti, appunto. It's a weak metaphor, but it's a good song. It's an old song, so I was still kind of finding my way, but it's a good song. Yeah. Sì, dice una canzone che ancora gli piace, ancora è buona, anche se l'ha scritta tempo fa, stava ancora cercando, diciamo, la sua strada come scrittore. Ha detto la metafora è un po' debole, ma la canzone è buona, per cui continua a suonarla. Ma io ho perso un attimo il conto, quanti dischi ha fatto? How many records did you make? I think I got about 4.5. 4.5. Yeah, one is an EP. Yeah. Uno è uno standard play. Ok. Yeah. Bene, allora noi adesso ci ascolteremo un altro brano da Haymaker prima di chiudere la trasmissione con l'ultima canzone dal vivo. Qua lo dico sempre, ma quando ci sono questi appuntamenti il tempo vola con i musicisti che vengono a trovarci, è sempre un'emozione, un piacere. Ci ascoltiamo questo brano intitolato Paper Chains, le catene di carta. Paper Chains are obviously weak chains, right? Right. Sono delle catene molto deboli. It's a song about not having any money and being broke and about how money is something that jails us and it, like it incarcerates us in a lot of ways, and it weighs a lot on people's minds, I suppose. Dice in realtà è una canzone che parla di soldi, della mancanza dei soldi, di come quando sei in una situazione del genere pensi sempre solo a quello, so you cannot think about anything else that, right, exactly, ok, yeah, yeah. Got it. Ok, allora Paper Chains, sempre da Hayward Williams. With all these orphan meals and abandoned drinks, what's there to do but sit and think? Think about a day that never again. Think about what's keeping me here till the end. Paper chains are red and white. Paper chains keep me up all night. Paper chains to line your chains, and I can't break through. I can't break through. Days keep on breaking down to the finest sand. And 1 hour gone on a 10-minute plan. Afraid of the fear and the ties bind. Chains to line your room. Paper chains, and I can't break through. No, I can't break through. No, I can't break through. No, I can't break through. No, I can't. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Paper Chains, con un arrangiamento molto ricco, and very powerful arrangement in this song. Yeah, absolutely. It's funny, I haven't listened to that arrangement in a long time, and I forgot the horns. And I was like, man, that sounds awesome. Ha detto che era un po' che non sentiva il suo stesso disco, e questa è una cosa tipica di molti musicisti, e non si ricordava dei fiati, e ascoltando ho detto, però se mi è proprio venuta bene. I know this sounds very funny to us, but I know that many musicians never listen to their records. Moltissimi musicisti non riascoltano i loro dischi. The moment lo suonano dal vivo. Yeah. You play the songs live, but you don't listen to the records. I haven't listened to this in forever, so it's kind of fun listening to it tonight. But the moment I'm done with it, I'm already thinking about the next record. Yeah, si dice appunto che lo diverte anche ascoltarlo di nuovo stasera, però nel momento in cui il disco è finito ed è fuori, e subito il musicista comincia a pensare al passo successivo, a quello che farà dopo. In effetti è abbastanza logico, penso succeda lo stesso anche a un regista, a uno scrittore o a un attore, insomma non vanno a rivedersi il film a meno che non abbiano qualche ragione ben precisa. Bene, allora stiamo per chiudere questo appuntamento di Rockwave Live. Devo fare un annuncio. Allora, da lunedì prossimo le trasmissioni serali verranno sospese perché ci saranno qualche piccolo lavoro di ristrutturazione. Praticamente entreranno con le ruspe, se hai capito bene. Era un po' di tempo, in effetti, che c'era da sistemare un po' di muri qua, per cui per un po' di tempo non ci sentiremo. Noi continueremo a pensare a come farvi passare delle belle serate, quindi non appena le cose saranno rimesse al loro posto ci risentiremo. Potete magari troverete gli aggiornamenti sul nostro sito, che resta attivo, bluradioveneto.it. E vi ricordo che questa trasmissione, come tutti i nostri live, sarà disponibile in podcast entro qualche giorno per chi la volesse riascoltare o per chi l'avesse persa o si è sintonizzato all'ultimo momento, e sarà appunto possibile fare il download e ascoltarsela in santa pace a casa. E appunto, per un po' di tempo non ci sentiremo, comunque vi ringraziamo per essere stati con noi questa serata, speriamo che vi siate divertiti a casa vostra come ci siamo divertiti noi ad avere qua questo personaggio non solo molto bravo ma anche estremamente simpatico, che è Hayward, e speriamo di riaverlo presto nei nostri studi. I'm wishing that you will be back for with the next record next year, or you know, I don't know, God knows when. But you're always welcome. Thank you so much. It's been so much fun, and it's been so encouraging, just playing in this excellent country. Yeah. Serious. Yeah. Thank you. Sì, ha detto, ci ha ringraziato, ha detto che è stato divertente, ma anche molto incoraggiante suonare nel nostro bel paese, per cui insomma abbiamo tanti problemi, però chi viene da fuori è sempre molto felice di venire a trovarci qua in Italia. Bene, allora da Stefano Dainese, dobbiamo annunciare l'ultima canzone. Hayward ha detto che a quest'ora la sua voce è bella calda, bella, bella fonda, e quindi ci suonerà una canzone di un musicista che lui ama molto, che è Tom Waits. What song will you play? Long Way Home. Long Way Home di Tom Waits. Bene, dalla voce di Hayward Williams, buon ascolto a tutti, buonanotte e grazie di tutto. Well, I stumbled through the darkness, lost and alone. Though I said I'd go before us, I'd show the way back home. There's a light up ahead, can't hold on very long. Oh, I love you, baby, but I always take the long way home. You know money's just something you throw off the back of a train. Got a handful of lightning and a hat full of rain. Well, I know what I said, never do it again. I love you pretty baby, but I always take the long way home. I put food on the table, a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back and keep your eyes shut tight. Your love's the only thing I'd ever known. I love you, but I always take the long way home. You know I love you, baby, more than the whole wide world. You know you are my woman. You know you are my pearl. Let's go out past the party lights, where we can finally be alone. Come with me and we can take the long way home. Oh, come with me and we can take the long way home. Come with me and together we can take the long way home. Thank you, guys. Thank you. Cheers.